Ben ritrovato Fabrizio Saccomanno, Buonasera. che ha firmato la collaborazione artistica per lo spettacolo Cenere, Corale per le Tabacchine, che sarà a Roma, al Centrale Preneste Teatro, il 10 marzo. Fabrizio, allora, per chi è all'ascolto, lo descriviamo questo lavoro? Sarò molto breve perché poi il teatro più che descrivere è un teatro, il teatro va visto, insomma. Certo. Nasce come all'inizio come un workshop sull'arte del racconto a teatro, con un gruppo di persone molto motivate e anche molto talentuose, molto bravi. E a un certo punto abbiamo focalizzato l'interesse e l'attenzione su una vicenda di cui si parla pochissimo, nello specifico una vicenda avvenuta in un piccolo comune del Basso Salento, che è Pigiano. Che è uno sciopero di tabacchini, coinvolge tutta l'intera comunità. E abbiamo cercato di raccontare questa vicenda però in maniera sincopata, in maniera non lineare, cercando di restituire un po' i punti di vista di una serie di attori che presero parte a quella vicenda. E ne è venuto fuori appunto questo lavoro che abbiamo intitolato un po' anche metaforicamente, non solo Cenere. Fabrizio, in parte hai risposto, però volevo sapere insieme alle tante attrici e come hai pensato la messa in scena. Allora, a un certo punto ci siamo resi conto che quello che restava di quella vicenda è semplicemente le parole. Sì. Parole che siamo andati a scovare in qualche modo, sia a partire da un testo scritto da De Francesco che in qualche modo ripercorre quei giorni e quelle vicende, sia anche attraverso l'incontro che alcuni attori, alcune attrici hanno avuto con delle persone che ricordavano qual era la vita nella fabbrica di tabacco, come si viveva, in che condizioni soprattutto si lavorava. Allora, attraverso anche una ricerca sul campo sono venuti fuori dei frammenti di storie. La messa in scena allora è diventata tutta parola, nel senso che c'è solo un microfono illuminato, addirittura chi parla non è nemmeno illuminato, prende solo una luce riflessa, in modo che quello che noi ascoltiamo è proprio una sorta di eco di fatti avvenuti tanto tempo fa, che però hanno anche una loro urgenza oggi, nel senso che ho sempre pensato poi che fare teatro di memoria, teatro civile, ha senso nella misura in cui noi nel nostro presente gli diamo un senso. E oggi abbiamo vive Dio bisogno di ricordare le lotte che ci ha preceduto, ha affrontato, mettendo in gioco spesso la propria vita, giocandosela a dadi, mettendo tutto in gioco. E pensiamo che è interessante per l'oggi, interessante in un universo in cui le lotte spesso sono periferiche, sono occultate, non se ne parla. Dobbiamo riformulare un po' degli strumenti di lotta nel contemporaneo, lotta rispetto alle proprie prerogative, ai propri diritti, alla propria vita. E il coraggio di quelle donne è straordinario. Ricordarlo oggi dà una grande forza, Sì. ci fa veramente guardare al futuro anche in un'altra maniera, secondo me. Lo so che sembrano frasi un po' retoriche, però il teatro si deve anche far carico di questioni politiche, cioè di questioni che hanno a che fare con la polis, con la convivenza e con la vita all'interno di una città, di una comunità, Sì. insomma. Fabrizio, di quella vicenda e di quelle testimonianze è stato realizzato anche un libro. Sì, è stato realizzato il libro che in realtà per me è stato anche il testo e il pretesto per la partenza del lavoro. Un testo appunto di Giovanni De Francesco che ha raccontato in qualche modo, per sommi capi, quella che era la posta in gioco e quello che avvenne in quegli anni. E difatti quello che avviene è che, non voglio, come si usa dire in questi giorni, spoilerare, ma insomma, a un certo punto c'è una fabbrica che occupa molte donne, che è all'interno di un paesino come Tigiano, stiamo parlando di villaggi di 1200-1300 anime, e significa in qualche modo che è data a mangiare a tutte le famiglie o quasi. A un certo punto queste donne a gennaio, quando sanno che devono ritornare al lavoro, e invece non vengono richiamate. E da lì parte uno sciopero, che all'inizio dovrebbe essere uno sciopero anche le forze dell'ordine, penso che sia uno sciopero premi, in realtà durerà più di 20 giorni e con un crescendo di esasperazione, di fatica e anche di violenza, repressa poi dalle forze dell'ordine, fortunatamente non c'è scappato. scappato il morto, come a volte è capitato in queste circostanze. La cosa straordinaria è che, anche in qualche modo anche nel libro viene un po' accennato, c'è un'intera comunità poi che partecipa. Nel senso c'è il fornaio che porta il pane, la notte alle donne, ci sono gli uomini che aiutano le donne, c'è tutta un'intera comunità che riconosce il valore di questa lotta e che appoggia in tutti i sensi, ognuno col suo, quelle giornate e quella lotta. Sì. E questo, ripeto, risulta commovente, non è l'operaio sciopero e agli altri non gliene frega di meno, Sì, no? Tutto un paese che invece sta lì, che solidarizza, che partecipa, è la lotta di tutti, quella lotta di quelle donne. Fabrizio Cenere sta facendo anche tutto un suo percorso in giro per l'Italia. Ci dici un po' come sta andando? Trovo che intanto, vabbè, chi non conosce quelle vicende rimane colpito, e poi questa polifonia di voci fa sì che si entra in un turbinio, perché c'è anche la forma teatrale, appunto, una sorta di corale. E, beh, la reazione, devo dire, positiva, anche se positivo non vuol dire niente, cioè c'è un'attenzione. Poi io credo quando si raccontano le storie bisogna far precipitare gli ascoltatori dentro quelle vicende. Se ci riusciamo abbiamo vinto, tra virgolette, abbiamo offerto teatro. E credo che stia andando molto bene da questo punto di vista. Sempre molti consensi e anche molta emozione in chi ci ascolta. Per chi volesse saperne di più, esiste, se non sbaglio, la pagina Facebook dello spettacolo, vero? Sì, lo spettacolo tra l'altro è promosso da Working Label, e sulla pagina di Working Label si dovrebbero trovare informazioni, anche se cercando Cenere con la lettera tabacchina si trovano tutte le informazioni. Benissimo. Ricordiamo l'appuntamento con Cenere, Corale per le Tabacchine al Centrale Preneste Teatro a Roma il 10 marzo. Fabrizio Saccomanno, un saluto, un abbraccio e alla prossima. Vi saluto anch'io, un saluto a tutti i radioascoltatori, alla prossima, un abbraccio.